Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto mondo. And climate change overall leaves us with a patchwork of solutions. As a matter of fact, it's been made worse by the changes this administration has made. I'm speaking from Delaware. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Sulle parole sì, di Joe Biden. Joe Biden, che anche ieri è sembrato molto combattivo, era nel suo stato natale, il Delaware, ha tenuto un discorso e siccome, come sappiamo, la California, ma anche l'Oregon e altri stati sono devastati dagli incendi e invece la Louisiana si aspetta l'uragano Sally, quindi un'estate, una coda d'estate molto tempestosa in ogni senso per gli Stati Uniti dal punto di vista meteorologico, Biden ha affrontato il tema del cambiamento climatico, che a questo punto torna prepotentemente come tema della campagna elettorale, e ha chiamato Donald Trump un climate arsonist, che letteralmente significa un piromane del clima. Trump continua a negare che ci sia il cambiamento climatico globale e tra l'altro, per quanto riguarda la California, che è l'emergenza più grave e che avrebbe bisogno di fondi federali, ha detto che per quanto lo riguarda non ci saranno fondi federali, perché sostanzialmente la colpa è dei californiani che non hanno fatto abbastanza manutenzione nei boschi colpiti soprattutto da siccità record degli ultimi anni, e tutta questa boscaglia, la siccità ha reso estremamente pericolosa, poi è diventata infiammabile e quindi è tutta colpa dei californiani. Giulia, tra i titoli principali sui giornali mi segnali che ci si occupa anche della vicenda TikTok Oracle. Sì, è l'apertura. Quale lezione dobbiamo? A che punto siamo? Guarda, perché questa è una vicenda che va per tappe, no? Adesso dove stiamo? Financial Times titola l'accordo Oracle TikTok, quindi da questo nuovo assetto di TikTok negli Stati Uniti sarebbe a questo punto esclusa Microsoft, che si era fatta avanti per prima, e questa collaborazione, questa partnership, letteralmente, secondo Financial Times, sarà difficilmente approvata da Donald Trump, che voleva una vera e propria vendita, non una partnership con un'azienda americana. Perché stiamo parlando in questa fase di una partnership. Esatto. Mr. Trump voleva che le attività americane diventassero proprio americane completamente. Quindi per esempio appunto Microsoft, che si era fatta avanti per comprarle. E anche Financial Times ha lo stesso titolo, discussioni, perché la politica entra, e per gli Stati Uniti non è affatto normale, in una transazione appunto tra un colosso quotato Oracle e TikTok, che appartiene a ByteDance, a sua volta colosso cinese quotato. Però curiosamente entrambi i quotidiani, quindi i due maggiori quotidiani economici finanziari in inglese, Financial Times e Wall Street Journal, come foto di prima pagina hanno quest'uomo giapponese portato proprio in trionfo, come si fa dopo una vittoria magari di una grande squadra, dai suoi sostenitori. Parliamo di Yoshihide Suga, che cominceremo credo a conoscere, che è diventato ieri il capo del Partito Liberal Democratico giapponese, quello di Shinzo Abe, e oggi dovrebbe ricevere ufficialmente la nomina di premier al posto appunto del dimissionario Shinzo Abe. Quindi un cambiamento nella continuità, stesso partito, un'elezione senza intoppi, però comunque sicuramente un grande cambiamento. Vedremo se avremo una Suganomics dopo la Abenomics, si chiedono Wall Street Journal e FT e Financial Times. Attualità internazionale, dove c'è anche la importante notizia della firma di questo accordo di pace storico tra Israele e gli Emirati. Esatto, ne parlavano naturalmente i giornali israeliani, oltre a dare la notizia del lockdown, perché Benjamin Netanyahu era in partenza per gli Stati Uniti, dove ha firmato questi due accordi di pace, quello che conoscevamo già con gli Emirati Arabi Uniti e quest'altro un po' sorpresa con il Bahrain. E se vuoi sentiamo le parole del genero di Donald Trump, il marito della sua figlia maggiore Ivanka, che è considerato, Jared Kushner, un po' l'artefice, perché fin dall'inizio dell'amministrazione Trump a lui il presidente aveva delegato la questione medio orientale. Quindi sentiamo le sue parole mentre saliva su questo primo volo tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Sentiamo. Well, this is a historic flight. We hope that this will start an even more historic journey for the Middle East and beyond. Dice, insomma, parole semplici e di buon senso. Questo è sicuramente un volo storico, appunto un collegamento aereo che prima non poteva essere concepito tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, e speriamo anche che sia il simbolo di un journey, un viaggio per un nuovo scenario in Medio Oriente. E non tutti però sono così entusiasti, perché qui sentiremo un membro dell'autorità palestinese che già è così un po' scettico sul fatto che vengano chiamati accordi di pace, perché dice un accordo di pace si fa dopo una guerra, e non c'era guerra tra Emirati Arabi certo. Uniti e Israele, come invece c'era stata tra Egitto e Israele, e lì naturalmente c'è stato un accordo di pace, né tra Israele e Bahrain. Non solo, dice lui, sono molti anni che ci sono rapporti commerciali tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, ma sentiamo le sue parole. The Emirates and Israel had relations already together. There was never a struggle between them or a fight between them, so I don't know why they need to call this a peace. E dice non vedo perché si debba parlare di pace, visto che non c'è mai stata una guerra. Il tema è quello appunto dell'interlocutore dell'autorità palestinese, che è rimasto fuori da questi accordi, tanto che soprattutto i giornali israeliani, i giornali americani sono concentrati soprattutto sulle vicende interne, mentre i giornali israeliani ovviamente guardando avanti, e anche perché hanno poi il problema interno del nuovo lockdown, si chiedono: ma a questo punto il processo di pace con i palestinesi come proseguirà? Sarà facilitato, pensa Jerusalem Post, invece sarà ancora più difficile, sostiene Arez. Perché ci sono le foto di Venere su questi giornali, Giulia? È bellissimo il titolo dell'Independent, sì. Is there anybody out there? E quelli forse non più giovani, giovanissimi, come vedete, canzone dei Pink Floyd del 1979. La foto è questa foto bellissima di Venere, mm-hmm. perché Venus in inglese, perché sapete, forse avete sentito, insomma, ci sarebbe vita su Venere, quindi non su Marte, non ci sono i marziani, dobbiamo ma i cambiare, venusiani. Dobbiamo cambiare espressione, non sì. C'è vita su Venere. Sì. Ok, ancora abbiamo ancora 2 o 3 minuti, qualche titolo invece dei giornali europei. Ma sì, se vuoi appunto, a parte questa notizia su Venere che fa molto effetto sia ai quotidiani spagnoli che a quelli britannici, in Gran Bretagna in realtà i temi sono due: la seconda ondata del Covid, con un problema enorme per la disponibilità dei test, tanto che Metro titola No Trace of a Test, sapete che l'app si chiama Tracing App, quindi non c'è traccia dei test. E c'è questo, c'è un problema di laboratori che non ci sono, ne dovrebbe essere operativo uno ma tra 2 settimane, e 2 settimane in questo momento sono un tempo lunghissimo. E poi la questione della Brexit, perché è vero che il Parlamento ha approvato il progetto di legge che porterà di fatto a una hard Brexit, ma ci sono anche tantissimi contrasti interni. Vi dico solo un piccolo particolare: in questa legge c'è anche un articolo che prevede la fine del tax free negli aeroporti. Questo è un problema che Boris Johnson probabilmente sottovaluta, però fa parte di quella libera circolazione delle merci e anche di quei cambiamenti che il mercato unico aveva portato, che non è così indolore cancellare. Giusto, giusta parola. Sì, sì, sì, sì. Allora, invece Francia, Germania, abbiamo ancora minuto e mezzo. Francia, danno molto spazio al fatto che in Giappone, ne abbiamo parlato prima, per i giapponesi forse non è così importante, per i francesi sì, inizia il processo, qui in contumacia possiamo dire, per Ghosn, ex amministratore delegato del colosso francese Nissan, che appunto era una joint venture tra Francia e Giappone, perché lui è in Libano, sapete, ricorderete quella avventurosa fuga in Libano, si disse anche all'interno di una bara. In ogni caso, insomma, il processo verrà celebrato, l'unico imputato che sarà lì presente è il suo vice, poveri vice che si prendono anche l'onere dei processi, però intanto naturalmente il processo verrà seguito da vicino, le accuse sono pesantissime. Per chiudere, qualche secondo sulla Germania invece, sì, cos'hai? Se vuoi la Germania, che è gli unici quotidiani che continuano a seguire molto da vicino la vicenda della Bielorussia. La Welt ha in prima pagina una foto di Putin che incontra Lukashenko. Perché molti di noi non auspicavano, in realtà Putin ha ribadito con estrema chiarezza il suo supporto a Lukashenko in termini economici e in termini anche militari, se dovesse essere necessario. necessario. Grazie Giulia, ci risentiamo domani con te naturalmente. Per la puntata di oggi Effetto Giorno è tutto, con Jacopo De Franchi in redazione e Pietro Lacorte in regia. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.